Così concludiamo questa settimana, questi 5 giorni in compagnia di Coelet. Sono contento di aver sentito qualche eco, qualche persona che mi diceva: io lo conoscevo, però mi ha fatto piacere risentirlo. Oppure tantissime altre persone che mi hanno detto: io non sapevo neanche che esistesse. E conoscere questo libro l'ho trovato un po' difficile, però l'ho trovato anche utile a riflettere. Io credo, vi devo confessare che l'ho riscoperto anch'io all'alba dei 73 anni. Lo conoscevo, l'avevo letto, l'ho predicato, ma non c'è nulla come il predicarlo agli altri per capirlo noi stessi. C'è un bel proverbio che dice: se vuoi imparare, studia, ma se vuoi imparare meglio, insegna. Perché nel momento in cui tu devi pensare a come insegnare, devi averlo ben chiaro nella tua mente. E per me è ben chiaro nella mia mente che non è affatto, come a prima vista qualcuno potrebbe dire, un profeta, un libro pessimista. La persona pessimista è quella che su tutto, non vede altro che il negativo. Non solo, non è capace di gioire del bene, perché anche lì vede il negativo. E se riceve un piacere, dice: ma chissà perché lo fa, ci avrà il suo interesse. No, Coelet non è così. Abbiamo sentito dire che tutto è vanità, certamente, ma ci ha detto anche i giorni scorsi: goditi la vita con la tua donna, mangia, bevi. E anche oggi ci dice nel capitolo 11: dolce è la luce e bello è per gli occhi vedere il sole. Anche se l'uomo vive molti anni, se li goda tutti. Però aggiunge un particolare: ma pensa che finiranno. Allora non è un pessimista, è una persona realista. È una persona che dice: goditi la vita, però ricordati che finisce. Se li goda tutti e pensi ai giorni tenebrosi che saranno molti, tutto ciò che accade è vanità. Non è pessimismo questo, amici, questo è realismo. Siamo noi che siamo persone con la testa fra le nuvole, che non pensiamo assolutamente alla nostra morte. E invece è un principio di saggezza saperlo. Quanta gente arriva a invecchiare male perché non ci ha mai pensato e non si è mai preparata. Quanta gente arriva alla malattia e alla morte male perché non ha mai ritenuto che la sua vita potesse arrivare a questa fine. È pessimista questo? Ma no, è un saggio. È un saggio. Io credo che me lo terrò come libro preferito della Bibbia, da leggere e da rileggere. Godi, o giovane, della tua giovinezza, si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù, segui pure le vie del tuo cuore, i desideri dei tuoi occhi. Non è un pessimista. Però poi aggiunge: sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. È una persona completa nel suo ragionamento. E infine c'è l'ultima frase, no, che per me vale da sola tutto il libro. Conclusione del discorso. Dopo aver ascoltato Dio, dopo aver ascoltato tutto, 2 punti. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché l'uomo sta tutto qui. Bellissimo, bellissimo. Cos'è l'uomo? L'uomo è quello che gode anche della bellezza, gode della gioia, però sa che tutto è nelle mani di Dio e anche lui finirà lì e che sarà giudicato. Temi Dio, lo sappiamo, anche questo verbo è bellissimo, no? Temere, cioè abbi il santo timore di Dio, abbi il santo rispetto di Dio. Dio è Dio, Dio è Dio e tu uomo sei polvere e cenere. Lo si sente all'inizio della Quaresima, no? Temi Dio e osserva i suoi comandamenti. L'uomo sta tutto qui.